resta e vado via. Giorni che sembrano infiniti, giorni che non si incontreranno mai. Questo è quello che ora siamo noi. Sesso, quello che cerchi ma non puoi darmi un'altra volta, proprio no. Danni ne ha fatti troppi, già il mio orgoglio. Insieme diventa un secolo, non sorridiamo, non ci guardiamo, frasi pesanti se ci parliamo. Dimmi dov'è la donna dolce che per 4 anni è stata accanto a me, che mi baciava, desiderava, mi capiva.